Dopo l'addio di Conad avvenuto 2 anni e mezzo fa, è arrivato Carrefour, che è rimasto per soli 2 anni. Dopodiché, andandosene, si sta portando via un po' tutti i vari negozi che ci sono all'interno del centro commerciale Cabianca, quale il bar, che adesso chiuderà a metà dicembre, e quindi all'interno si ritroveranno solo un negozio di serramenti che aprirà a gennaio probabilmente, un ufficio di una vigilanza, l'estetista, e un negozio dove fanno stampe e quant'altro. Ma questo è un problema, soprattutto perché la zona era anche un punto di ritrovo, era un punto di aggregazione anche per chi era in difficoltà o per chi aveva semplicemente motivo di incontro e un bisogno immediato, ecco, che adesso si è disperso. Si è disperso nel senso che l'anziano che ha bisogno comunque di uscire tutti i giorni, detta come va detta, cioè nel senso che per sentirsi un po' vivo, ecco, non può stare in casa tutti i giorni, quindi usciva, veniva a prendersi anche solo il litro di latte, il pezzo di pane o il pezzo di carne da mangiare quotidianamente. Era un motivo in più per poter uscire e per sentirsi vivo, ecco. Poi ok, io sono rimasto per il momento, spero, anche perché loro con me per il momento si salvano con l'uscita quotidiana, il giretto quotidiano, ecco. Però la mancanza di un centro commerciale alimentare è grande, perché la zona è abbastanza vasta. Ok, ci sono tanti centri commerciali nelle vicinanze, però l'anziano che fatica anche a muoversi poteva portarsi anche il carrello a casa con la spesa dentro, invece così non lo può più fare, ecco, devi fare un chilometro e mezzo, e per spostarti o hai la macchina o l'autobus, però con le conseguenze l'autobus sì, fai fatica a girare con i sacchetti. Sì, è più scomodo. Noi giovani, fra virgolette, riusciamo, un anziano fatica, ecco. Quale può essere un futuro? Ah, si va con la speranza che la proprietaria dei muri riesca a trovare qualcuno, oppure che gli vada bene qualcuno, perché qui le voci sono tante e quindi non sappiamo neanche noi a chi credere oramai. Noi andiamo con la speranza che trovi un qualcuno che o compri l'intero pezzo, insomma l'intero fabbricato, oppure trovi qualcuno che in affitto apra un negozio nell'imminenza, poi che siano 2 o 3 mesi, insomma. Amen. Però l'importante è che apra. C'è una sensibilità da parte del comune? A loro ci hanno dato manforte, nel senso che abbiamo fatto questa raccolta anche con l'appoggio, insomma, del comune e quant'altro. Però adesso bisogna rispondere con i fatti a tutto questo, ecco, insomma, noi la raccolta firme l'abbiamo fatta, che poi una raccolta firme per la sensibilizzazione verso tutti a questo problema. Ne hanno parlato anche nel consiglio comunale, però finché ne parlano e nessuno si vede, ecco, l'importante è che si diano da fare.